Questa è la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore nell'anno decimo di Sedecia, re di Giuda, cioè l'anno diciottesimo di Nabucodonosor. In quel tempo l'esercito del re di Babilonia assediava Gerusalemme e Geremia il profeta stava prigioniero nel cortile della guardia che è nella casa del re di Giuda, perché lo aveva imprigionato Sedecia, re di Giuda, con questa imputazione: perché tu profetizzi dicendo, così dice il Signore, ecco, io consegnerò questa città in potere del re di Babilonia e la prenderà. Sedecia, re di Giuda, non scamperà dalla mano dei Caldei, ma sarà irrevocabilmente consegnato in potere del re di Babilonia e parlerà con lui bocca a bocca e i suoi occhi vedranno gli occhi di lui. Egli condurrà Sedecia in Babilonia, ove resterà finché io lo visiterò, oracolo del Signore. Sì, voi combattete contro i Caldei, ma non riuscirete. Disse Geremia: la parola del Signore mi fu rivolta così. Ecco Canamel, figlio di Sallum, tuo zio, sta venendo verso di te per dirti: comprati il mio campo che è in Anatot, poiché a te spetta il diritto di riscatto per acquistarlo. Entrò dunque da me nel cortile della guardia Canamel, figlio di mio zio, secondo la parola del Signore, e mi disse: compra il mio campo che è in Anatot, poiché a te spetta il diritto di eredità e a te il riscatto, compratelo. Io compresi che questa era la parola del Signore. Allora comprai il campo da Canamel, figlio di mio zio, che è in Anatot, e gli pesai il denaro, 17 sicli d'argento. Scrissi l'atto nel libro e lo sigillai, radunai i testimoni e pesai l'argento sulla bilancia. Quindi presi il libro dell'acquisto, quello sigillato e quello aperto secondo la prescrizione e gli statuti, e consegnai il libro dell'acquisto a Baruch, figlio di Neria, figlio di Maxia, sotto gli occhi di Canamel, figlio di mio zio, e sotto gli occhi dei testimoni che avevano firmato il libro dell'acquisto, sotto gli occhi di tutti i giudei che stavano seduti nel cortile della guardia. Poi ordinai a Baruch alla loro presenza: prendi questi scritti, questo libro dell'acquisto, sia quello sigillato che quello aperto, e mettili in un vaso di argilla, affinché si conservino per molti giorni. Infatti, così dice il Signore degli eserciti: ancora si compreranno case e campi e vigne in questo paese. Dopo che ebbi consegnato il libro di acquisto a Baruch, figlio di Neria, pregai il Signore. Ah, Signore Dio, ecco, tu hai fatto il cielo e la terra con la tua grande potenza e con il tuo braccio steso. Per te non è prodigiosa alcuna cosa. Tu agisci misericordiosamente verso le tribù e ripaghi l'iniquità dei padri in seno ai figli dopo di loro, Dio grande e forte, Signore degli eserciti è il suo nome. Grande per il consiglio e potente per le opere. Tu che tieni i tuoi occhi aperti su tutte le vie dei figli degli uomini, per retribuire a ciascuno secondo la propria condotta e secondo il frutto delle loro azioni. Tu hai operato segni e prodigi nel paese di Egitto fino a questo giorno in Israele e tra gli uomini, e ti sei fatto un nome come in questo giorno. Tu facesti uscire il tuo popolo Israele dal paese di Egitto con segni e prodigi, con mano forte e braccio steso, con timore grande. Vesti loro questo paese che avevi giurato ai loro padri di dare loro, paese ove scorre latte e miele. Essi vi giunsero e l'ereditarono, ma non hanno ascoltato la tua voce e non hanno camminato nella tua legge, non hanno eseguito tutto ciò che ordinasti loro di fare. Perciò hai fatto arrivare tutta questa sventura. Ecco, i terrapieni raggiungono la città per occuparla, e la città sarà consegnata in potere dei caldei che combattono contro di essa con la spada, con la fame e con la peste. Ciò che hai detto è giunto, ed ecco, tu lo vedi. E tu mi dici, Signore Dio, comprati il campo con argento e chiama testimoni, mentre la città è consegnata in potere dei caldei. Allora la parola del Signore fu rivolta a Geremia in questi termini. Ecco, io sono il Signore, Dio di tutti gli uomini. Forse che per me c'è qualcosa che sia prodigiosa? Perciò così dice il Signore. Ecco, io sto per consegnare questa città in potere dei caldei, in potere di Nabucodonosor, re di Babilonia, e la prenderà. I caldei che combattono contro questa città entreranno e la incendieranno con il fuoco e la bruceranno insieme alle case sulle cui terrazze offrirono incenso a Baal e fecero libagioni a dei stranieri per farmi irritare. Sì, i figli di Israele e i figli di Giuda hanno continuato ad agire malvagiamente dinanzi a me fin dalla loro gioventù. Anzi, i figli di Israele mi hanno provocato con le opere delle loro mani, oracolo del Signore. Sì, motivo della mia ira e motivo del mio sdegno è stata per me questa città, dal giorno in cui la fondarono fino ad oggi. Perciò la farò sparire dal mio cospetto a motivo di tutta la malvagità che i figli di Israele e i figli di Giuda hanno commesso, facendomi irritare loro, i loro re, i loro capi, i loro sacerdoti, i loro profeti, gli uomini di Giuda e gli abitanti di Gerusalemme. Mi hanno perfino girato la schiena e non la faccia, mentre io li ammaestravo con sollecitudine e bene. Essi non hanno dato ascolto per ricevere la correzione. Hanno collocato le loro abominazioni nella casa dove si invoca il mio nome, contaminandola. Hanno anche costruito le alture di Baal, che sono nella valle Ben Innon, per far passare attraverso il fuoco i loro figli e le loro figlie in onore di Moloch, ciò che non ordinai, né mi è venuto in mente che praticassero tale infamia per condurre Giuda a peccare. Ora così dice il Signore, Dio di Israele, circa questa città di cui voi dite: è stata consegnata in potere del re di Babilonia con la spada, con la fame e con la peste. Ecco, io li radunerò da tutti i paesi dove li ho dispersi nella mia ira, nel mio furore e nel mio sdegno grande. Li ricondurrò in questo luogo e li farò abitare nella sicurezza. Essi saranno per me il mio popolo, mentre io sarò per loro il loro Dio. Allora darò loro un altro cuore ed un'altra norma, perché mi temano ogni giorno per il bene loro e dei loro figli dopo di loro. Farò anche un patto eterno con loro, quello di non ritirarmi più da loro, facendo loro del bene. metterò anche il mio timore nel loro cuore affinché non si allontanino più da me. Io gioirò di loro, beneficandoli, e li pianterò in questo paese stabilmente con tutto il mio cuore e con tutta la mia anima. Sì, così dice il Signore. Come ho fatto venire contro questo popolo tutta questa grande sventura, ugualmente io farò venire su di loro ogni bene, quello che ho annunziato in loro favore. Si compreranno ancora campi in questo paese, circa il quale voi andate dicendo: è una devastazione, senza uomini e senza bestiame, è stato dato in potere dei Caldei. Si acquisteranno campi con argento, e si farà la registrazione nel libro, e si sigillerà, e si raduneranno testimoni nel territorio di Beniamino, nei dintorni di Gerusalemme e nelle città di Giuda, nelle città della montagna e nelle città della Sefela e nelle città del Negev. Sì, io cambierò la loro sorte. Oracolo del Signore.